Allora, ci sono molti appuntamenti, come detto, di varia natura e soprattutto nella perfetta convinzione, questo è il pensiero che mi guida, che non esista una musica di livello e una musica classica piuttosto che la musica, sono tutte espressioni molto interessanti, c'è solo un problema di qualità. Ecco, la qualità è il leitmotiv delle nostre scelte. Scelte che quest'anno ci hanno portato a ritrovare un grande musicista come Goran Bregovic, a inventarci una serie di occasioni per far parlare del territorio, di alcune scoperte, l'abbiamo detto in conferenza stampa, io sono particolarmente legato a questa che riguarda Mario Maccaferri, Pieve di Cento e Cento, che è stato un grande inventore soprattutto di chitarre, facciamola breve, la chitarra di Django Reiner, per spiegare. Allora abbiamo inventato un'intervista impossibile, essendo che Maccaferri purtroppo è molti decenni che non è più con noi, e chiedendo a Patrizio Roversi di interpretarlo in questa intervista che abbiamo inventato, appunto, impossibile, in cui ci racconta questa vicenda umana. Ma ripeto, sono molte le occasioni. Un'altra che mi preme, che forse può essere utile per capire, come avete detto, il desiderio di espanderci nel territorio non solo della regione Emilia-Romagna ma anche in altre, per l'esattezza ci stiamo muovendo nel Lazio e nella Toscana. La Toscana è proprio una passione, il luogo è San Galgano e anche lì faremo una riscoperta di una poetessa, scrittrice che si chiama Dina Ferri e di una bravissima attrice che è Sonia Bergamasco, con cui abbiamo montato uno spettacolo grazie anche all'utilizzo dell'Orchestra Regionale Toscana che già abbiamo incontrato l'anno scorso nello stesso luogo. E poi Max Gazzè e poi Erval Meta, tutti nomi molto interessanti che, ripeto, hanno questa funzione, in qualche caso quella di far scoprire i territori, perché quello che vogliamo è un'interazione completa e la scoperta di territori che non siano semplicemente luoghi dove si esibiscono gli artisti, ma siano proprio delle realtà che vengono conosciute. Noi stessi le scopriamo via via ogni anno, come Canossa, che appunto, come diceva l'assessore, non è un borgo, è un borgo diffuso, si usa questo termine, perché è un insieme di piccole realtà che hanno un unico centro, ma che è tutto da scoprire. Ecco, questa è anche un po' la missione di Entroterra, quella di, per primi noi, ma far conoscere appunto questa meraviglia che si chiama Italia. Ma appunto, infatti, questo suo lavoro si inserisce nell'idea della coprogettazione, quindi che i luoghi non vengono scelti anche in base agli artisti e viceversa? Sì, nel senso che il luogo serve l'artista, l'artista serve il luogo. E come ho detto, personalmente sono molto grato a Jessica Legni, attuale assessore, che ci ha fatto capire una cosa fondamentale, che forse con un po' di supponenza in quanto operatori culturali facevamo, cioè di proporre un artista in un territorio. Invece, secondo me, questo, ripeto, ce l'ha insegnato lei, occorre sentire il territorio e quindi proporre. Non ci può essere un'azione univoca, perché diventa una specie di invasione e soprattutto si crea uno scollamento. Il nostro compito è quello di alzare l'asticella, non di abbassarla né di buttarla via, diciamo. Questo è importantissimo. Quindi l'operazione vale sia come operazione culturale ma anche come dialogo con le istituzioni, e devo dire che l'Emilia-Romagna per tradizione ha delle istituzioni di ottimo livello.